Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e inizia bene la settimana per i mercati finanziari, soprattutto Milano, nel senso che se Parigi guadagna lo 0,4% come Francoforte, Londra più 0,8%, l'America è sostanzialmente invariata, Milano invece porta a casa un punto percentuale sul MIB, l'1,3% sull'S&P MIB. I motivi si chiamano soprattutto Unicredito più 5,3, Intesa più 3,3 come Saipem, il 3% lo guadagna in pregilo il 2,80 Geox, Popolare di Milano e Tenaris più 2,3%, Fiat più 2, Alleanza più 1,8 come Fastweb. Sospesa dalle contrattazioni IT Holding, ne parleremo nel corso dei mercati, di fatto ha chiesto il ricorso all'amministrazione controllata, il gruppo attivo nella moda e nel lusso, una storia che si protraeva da mesi alla ricerca di un compratore barra salvatore che non è arrivato e quindi i debiti hanno schiacciato il gruppo, ma ripeto, ne parleremo tra circa 20 minuti. Euro su dollaro a 1,30, quindi in recupero l'euro, euro su sterlina a 87 pence. Tra i titoli che perdono, Seat meno 5,6%, Autogrill e Finmeccanica meno 2,2%, Mediaset meno 1,4%, Mondadori meno 1,1%, Enel meno 0,90%. I temi che affronteremo, partiremo con l'Expo di Milano, perché oggi sui giornali avete letto di un insieme di dichiarazioni, dubbi, se ne parla, devo dire, soprattutto nelle cronache milanesi, dei quotidiani, ma non solo, da settimane, difficoltà a far partire il, chiamiamole difficoltà per usare un eufemismo, a far partire il consiglio di amministrazione, ma non solo, difficoltà anche a capire quanti soldi ci sono a disposizione, già alcune opere che erano annunciate come qualificanti dell'Expo 2015 sembrerebbero essere state accantonate, mi riferisco alle famose vie d'acqua che dovevano attraversare Milano in qualche modo per arrivare fino all'Expo a Ropero e sembra che questo progetto sia già stato accantonato, così come alcuni tratti delle linee 4 e 5 della metropolitana. Ma ne parleremo in apertura, perché a questo punto molti osservatori, devo dire non di parte, perché di mezzo c'è il sindaco di Milano Moratti, il presidente della provincia Penati che ha un altro colore politico, il presidente della regione Formigoni che appartiene al Popolo della Libertà, ma dicevo molti osservatori, senza buttarla in politica come si dice in questi casi, fanno notare che di fatto si è già perso un anno rispetto a quando l'Expo fu assegnato a Milano, che lo ricorderete batté Smirne. Questo è il tema di apertura, poi parleremo anche di Unicredito, dell'aumento di capitale, del fatto che la fondazione e la parte che appartiene, diciamo, che pertiene all'ex Cari Verona, quindi Biasi, non abbia voluto partecipare, l'appoggio libico, insomma, che cosa succede sul gruppo Unicredito e su altri gruppi bancari di questo paese, sullo sfondo i cosiddetti Tremonti Bond, ossia la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni che di fatto diventerebbero un prestito offerto dal Tesoro, ma un tasso, diciamo, e con degli elementi che hanno fatto storcere il naso ad alcuni banchieri. 349-238-6666 per i vostri sms, e rapidamente le notizie in breve. In aumento il petrolio oggi a $42,2 al barile, più 5% a New York, mentre per quello che riguarda l'Euribor continua a calare al 2,01%, di fatto l'Euribor ormai vale quello che vale il costo del denaro in Europa, che è al 2%, siamo al minimi dall'aprile del 2004. La crisi, il diario della crisi, come lo stiamo chiamando, allora l'impegno del governo americano per risolvere la crisi praticamente salirà a 9.700 miliardi di dollari, questo con il piano di stimolo da 800 miliardi che è addirittura d'arrivo al Senato statunitense si toccherà questa cifra, che equivale alla possibilità di pagare il 90% di tutti i mutui immobiliari americani. La stima l'ha fatta l'agenzia Bloomberg, che ha spiegato come, se si unisce la manovra della Federal Reserve, quella del Dipartimento del Tesoro e quella dell'Agenzia Federale per l'Assicurazione sui Depositi, in tutto sono stati prestati o spesi negli ultimi due anni 3.000 miliardi di dollari, e vi sono stati impegni a fornire ulteriori 5.700 miliardi se necessario. Non è che questi soldi siano tutti usciti, si tratta delle garanzie messe in piedi dal sistema americano, ma la cifra è oggettivamente imponente e non saprei come altro definirla, quasi 10.000 miliardi di dollari. Barclays, l'utile 2008 cala, ma molto meno del previsto. Infatti l'utile è sceso a 4,38 miliardi di sterline, pari a circa 5 miliardi di euro, ma le attese erano di 1,5 miliardi di euro in meno, quindi meglio delle previsioni l'utile di Barclays, e questo dato, oltre ad alcuni elementi invece interni alle assicurazioni arrivate dalle fondazioni, è uno dei motivi per cui UniCredit guadagna in questo oggi 5,3%. Tra l'altro, appunto, in Mediobanca e altri soggetti ieri hanno assicurato che i 500 milioni mancanti dopo, per la ricapitalizzazione di UniCredit dopo il passo indietro della Fondazione Cari Verona, saranno messi da altri soci e investitori. Ve ne hanno già parlato i nostri GR, ma insomma la Nissan oggi annuncia e ha annunciato un piano monster di tagli di posti di lavoro, 20.000 posti di lavoro in meno entro marzo del 2010. I dipendenti della Nissan passeranno da 235 a 215 mila, anche perché quest'anno la Nissan stima una perdita per l'esercizio pari a 2 miliardi e 200 milioni di euro. Sempre sul settore auto, oggi il presidente francese Sarkozy incontrerà i vertici delle case automobilistiche francesi per discutere del piano di aiuti al settore. Piano di aiuti che potrebbe arrivare a 6 miliardi, oltre 1 miliardo e 8 di fondi già stanziati, ma che ha fatto molto discutere per quell'invito, chiamiamolo così, alle case automobilistiche francesi a utilizzare produttori solo francesi di componenti, altrimenti non avrebbero ricevuto gli aiuti statali. Poi il governo di Parigi ha fatto marcia indietro, ma insomma possiamo dire che ci ha provato. È immune dalla crisi il cioccolato, voi direte che ci azzecca. Beh, stiamo cercando di trovare in questi mesi notizie positive. In Svizzera infatti la crisi si è fatta sentire soprattutto sulle banche, con le svalutazioni di UBS e Credit Suisse. Però insomma, forse perché il cioccolato ha doti e proprietà notorie, antidepressive, per un modo o per l'altro la produzione di cioccolato in Svizzera è cresciuta del 10% quest'anno. E andiamo avanti. Se da un lato la Confesercenti segnala come nel 2008 siano state chiuse 40.000 imprese nel comparto del commercio, con 120-130.000 posti di lavoro in meno, sulla crisi abbiamo avuto anche altri interventi nel corso della due giorni a Venezia, tra venerdì e sabato, la Wint University di Confindustria. Adesso vi arriviamo, perché si è parlato molto anche di trasporti e quindi l'Expo entra nel tema, anche perché domenica, come molti di voi sanno ormai, è inaugurato il passante di Mestre. Due notizie velocissime, anche queste già presenti nei nostri GR. Condannato a 6 anni Danilo Coppola, immobiliarista romano, 6 anni di reclusione per la vicenda dove, tra l'altro, oltre a Coppola è stata condannata a 4 anni Daniela Candeloro, la commercialista della società, questo perché la società in questione fallita è la Micop. E ripeto, visto che ce lo chiedete, la società sospesa a tempo indeterminato è IT Holding, visto che la società di moda ha deciso di chiedere alla borsa italiana l'esclusione dal segmento Star, mentre il consiglio di amministrazione di IT Holding ha fatto istanza per essere ammesso all'amministrazione straordinaria. E allora, visto che stiamo parlando di infrastrutture di alta velocità, di tutto un insieme di opere. Ascoltiamo che cosa ha dichiarato proprio dal oggi durante la Mobility Conference, la prima delle due giornate di lavoro dedicata al mondo dei trasporti, Mobility Conference a Milano, la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Bisogna mettere subito in campo investimenti tra i 4 miliardi e i 4 miliardi e mezzo. Ci sono circa 4,5 miliardi di opere che non solo al nord, un po' in tutti i comuni possono partire subito, sono immediatamente cantierabili e oggi i comuni non le possono spendere perché c'è il vincolo del patto di stabilità. Quindi una riflessione su questo va fatta. Noi pensiamo, come ho detto, che i fondi stanziati ad oggi, che sono realmente spendibili nel 2009, sono troppo pochi per avere un effetto anticiclico, quindi chiediamo che da questo punto di vista si faccia una riflessione e si cerchi di investire di più. Così la presidente di Confindustria sui miliardi complessivi che possono essere sbloccati subito. Questo ci porta a parlare dell'Expo 2015. Qualcuno di voi ricorderà quel momento, era per la precisione il 31 marzo, quindi meno di un anno fa, eravamo in diretta con Focus Economia. In questo momento nei giornalisti, le persone che erano fuori la sala stanno entrando nella sala dove si è svolto lo scrutinio segreto. Milano ha vinto, a Milano va l'Expo 2015, a Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà. Sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. Così il 31 marzo era in collegamento con noi da Parigi la nostra inviata Paola Nania. Dal 31 marzo che cosa è successo? È successo poco, nel senso che la macchina organizzativa è ferma al palo, la società Soge, costituita ad hoc per gestire l'evento, è ancora bloccata a causa del braccio di ferro tra, diciamo, Roma, inteso come il governo, e Milano, sulle designazioni e i poteri nel consiglio di amministrazione. Non c'è solo il caso dell'amministratore delegato Glisenti, ma ci sono anche le designazioni, i poteri operativi, e poi degli 11 miliardi di finanziamenti necessari sembrerebbero mancarne 2,5, anche se la Corte dei Conti dice che sono di più, ha espresso dubbi anche sulla reale copertura dei 3 miliardi 200 milioni destinati alle opere essenziali. E allora ringrazio per averci raggiunto negli studi di Radio 24 Salvatore Caruba, che è stato direttore del Sole 24 Ore, assessore anche al Comune di Milano e attualmente direttore delle strategie editoriali del gruppo Sole 24 Ore. Buonasera Salvatore. Ciao Sebastiano, buonasera a tutti. Questa scheda, rapidamente, ancora non rapidamente perché abbiamo dei problemi di regia, allora sentiamo a questo punto alcune voci raccolte oggi dalla nostra Anna Marino sull'Expo 2015, perché insomma dubbi ci sono, le tensioni sembrano non essere del tutto risolte. Al microfono di Anna Marino Roberto Castelli, che è sottosegretario alle infrastrutture, in merito a quella sua frase sul rischio commissariamento presente oggi in molti giornali, così Castelli ha voluto chiarire. Io, sia ben chiaro, che non ho volto un auspicio, ne ho fatto una pressione, ho lanciato un allarme. Forse se adesso qualcosa si muove, magari in piccola parte qualcosa sono servito. Quindi ci sono delle speranze, insomma, perché si sblocchi la situazione? La vicenda Expo è divisa nettamente in due. Una sono le opere connesse, che sono le grandi opere sulle quali io ho la delega, e su questo vorrei dire una volta per tutte che i soldi li abbiamo trovati. Cioè siamo riusciti a creare un pacchetto di disponibilità. Adesso si tratterà di capire come destinarli, perché in Lombardia non esiste soltanto l'Expo, però in ogni caso il gruzzolo c'è. Abbastanza per coprire le esigenze dell'Expo, ne avanzano anche, perché noi siamo riusciti a mettere assieme circa 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi da cui bisogna togliere, anzi un po' più di 3 miliardi, tolto il MOSE che è già stato finanziato per 800 milioni, insomma i soldi ci sono in sovrabbondanza. Poi c'è la vicenda delle opere essenziali, che sono l'Expo vero e proprio, che sono di competenza della Soge, Io mi sono sentito di lanciare l'ennesimo allarme, perché basta andare a vedere i progetti che la Sogea vorrebbe portare avanti, sono quasi tutti allo stadio della fattibilità. Quindi il 2015 è mattina, per questo io mi sento preoccupato. Quindi attenzione, perché Castelli, sottosegretario delle infrastrutture, citava i soldi che lo Stato, che lui ha a disposizione, non, cioè anche per delle opere che riguarderanno in parte l'Expo, ma non solo. Altra cosa sono le opere, come ricordava, dedicate all'Expo e che stanno a carico come costo al Sogi. Comunque, soddisfazione da parte della presidente di Assolombarda, nonché presidente di Expo 2015, Diana Bracco, dopo le parole del sottosegretario Castelli. Al microfono la presidente Diana Bracco, sempre della nostra Anna Marino. Bisogna sbrogliare anche il nodo della capitalizzazione, quindi fino adesso abbiamo ricevuto delle assicurazioni, cioè di intenzioni, adesso bisogna poi fare un po' il punto e mettere insieme i soci, bisogna che si mettano insieme e si proceda a questa capitalizzazione, sine qua non, un tema senza il quale non si può andare avanti. Il governo ha lavorato molto negli scorsi mesi e quindi siamo messi in grado come paese di partire con un importante programma infrastrutturale, e questo è veramente molto rassicurante per tutto il sistema, per il sistema economico, per il sistema delle imprese, perché le infrastrutture sono veramente quella misura di investimenti materiali che va in senso anticiclico. Quindi in questo momento, dove sentiamo delle notizie così preoccupanti anche dal mondo del lavoro, quindi ci preoccupiamo moltissimo di mantenere di posti di lavoro, di migliorare la qualità di vita dei cittadini, eccetera, questi sono dei segnali forti. E su questo ascoltiamo anche il presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, che ha garantito che mercoledì prossimo la regione stanzierà i 2 milioni di euro di sua spettanza per ricapitalizzare la società di gestione. Questi soldi servono solo per la società, non per le opere, mi raccomando. E così come oggi Penati, presidente della provincia di Milano, ha annunciato che la provincia ha già approvato lo stanziamento di 1 milione di euro di sua spettanza. Sentiamo Formigoni. Noi la giunta lombarda la teniamo il mercoledì come sempre e approveremo lo stanziamento di 2 milioni di euro. A differenza che per la provincia, che se non sbaglio deve passare in consiglio provinciale, invece noi abbiamo operato in modo tale nei mesi scorsi, in modo che la decisione della giunta sarà quella definitiva. Quindi da mercoledì mattina i 2 milioni di euro che la regione si è impegnata a versare per la ricapitalizzazione della società saranno pronti. Allora, Salvatore Caruba, poi arriviamo anche alla scheda che tocca i vari nodi delle opere da fare, delle opere qui già accantonate, però cerchiamo di far capire a tutti, perché vedo molti messaggi, anche alcuni giustamente un po' confusi, al 349-238-6666. L'impasse, il blocco è su, diciamo, di tra virgolette scontro dialettico tra Milano e Roma sulle nomine della Sogge e quindi sui poteri che dovrà avere la società che dovrebbe essere guidata da Paolo Glisenti per gestire l'Expo, perché da parte, diciamo, del governo si dice vabbè, ma siccome questi soldi arrivano in buona parte dallo Stato, dal governo, è giusto che anche noi si possa mettere voce in questo, è la linea del ministro Tremonti per esempio, o il nodo vero e proprio sono i soldi al di là di chi li gestisce, perché in periodo di crisi, in periodo di cassa integrazione, in periodo di fondi, trovare tutti gli 11 miliardi e mezzo sarà un problema. I problemi sono certamente due. Fino adesso credo che in questi ultimi 11 mesi l'impasse sia stata proprio quella della governance, come diciamo noi nei nostri dotti articoli, ma in sostanza il tema era chi comanda in questa operazione. Lo Stato ci deve mettere un finanziamento molto cospicuo, ricordato anche il sottosegretario Castelli, e pretende soprattutto attraverso il ministro dell'economia di avere voce in capitolo, e da qui è nato questo scontro che non ha avuto effettivamente precedenti, anche perché rischia anche nei confronti dell'opinione pubblica, come tu accennavi, di creare un disorientamento molto grande. Si è venduta questa operazione, come giustamente sarebbe stato opportuno fare, come un grande volano, per di più in anni in cui ancora la crisi non si era manifestata in termini così drammatici come adesso, e la gente si chiede: ma come, abbiamo questa grande opportunità e rischiamo di buttarla a mare? Tra l'altro mette insieme anche altri elementi, cioè si dice: ma come, l'Expo serve a fare tantissime nuove infrastrutture che servono a Lombardia, a Milano, e nel frattempo l'unica infrastruttura che c'era, cioè Malpensa, la chiudete? Insomma, la gente rischia di non capire più nulla da questa vicenda. Quindi, fra l'altro, non dimentichiamo che ci sono anche scontri di natura politica. Qui la Lega, per esempio, lamenta di non essere stata ammessa in questa stanza dei bottoni, e quindi sta mettendo un po' di difficoltà alla SOGE, al funzionamento della SOGE. E naturalmente queste difficoltà vanno superate, tenendo conto del fatto che, come ha riconosciuto la stessa sindaca Moratti a Milano, l'operazione che portò al successo di cui abbiamo riascoltato la testimonianza l'anno scorso a Parigi fu un'operazione condotta con grande intesa col governo, che allora era di un altro colore politico, perché la Moratti diede atto a Prodi e a D'Alema di aver fatto tutto quello che era possibile perché appunto l'Expo arrivasse a Milano. Quindi ora che c'è un governo amico, diciamo così, a maggior ragione non si capiscono queste difficoltà. Però quando c'è una torta da spartire è fatale che queste difficoltà emergano. Speriamo che si risolvano al più presto. Quindi, per ora, questo per chiederlo a tutti coloro i quali scrivono, il problema è stato di natura politica. Cioè, mentre si è d'accordo chi deve sedersi, quali componenti, quale peso deve avere il Ministero dell'Economia e quindi di fatto il governo, quale autonomia deve avere la SOGE per tutto un insieme di opere, e anche l'allarme lanciato da Castelli dicendo: attenzione, qua si rischia il commissariamento, andava in questa direzione. Prima delle informazioni meteo e pubblicità, poi sentiremo anche la nostra scheda su questo, una domanda: c'è chi sospetta che alla fine, se continuerà questo stallo, si andrà per forza a un commissariamento, perché a un certo momento si fanno già i nomi, esatto. E c'è chi dice: ma alla fine il commissariamento è la carta che converrebbe di più, da un lato al governo e dall'altro anche sulla rapidità dei lavori, mettiamola così, perché il commissario a quel punto opererebbe in una situazione di fatto di emergenza e quindi salterebbe tutti i passaggi, anche quelli più dialettici con gli enti locali. Ritieni che possa esserci, diciamo, tra virgolette, un progetto di commissariamento dietro? Beh, sicuramente c'è chi questo progetto non lo approva, il sindaco di Milano non credo che approverebbe, lei stessa ha tentato all'inizio di porsi appunto come autorità decisionale finale di questa operazione, non le riuscì, e quindi un commissariamento sarebbe anche in qualche misura, suonerebbe come un commissariamento alla municipalità, certo. Dal punto di vista politico non sarebbe un grande risultato, dal punto di vista dell'efficienza è probabile che in Italia, se non ci sono meccanismi di questo genere, non si riesce a fare le cose in tempo. E questo, diciamo, non è entusiasmante come valutazione, ma probabilmente realistica. La pubblicità, il meteo, poi sentiamo dalla nostra scheda che quali opere già di fatto sono state accantonate. Ricordo che Milano ha vinto l'Expo con la linea alimentazione sostenibile, il futuro verde 2015, e alcune di queste opere andavano in questa direzione, per esempio le vie d'acqua, le vie alberate, i raggi verdi che dovevano convergere verso l'Expo da vari punti della città, che avrebbe dovuto cambiare anche così l'aspetto urbanistico della città. Già di questo ormai praticamente non si parla più. ...17:35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, nostro ospite Salvatore Carruba, per cercare di capire che piega prenderà questo Expo. Salvatore Carruba ha appena ricordato che probabilmente, se si va avanti così, il commissariamento sarà l'unica strada che ha qualche sostenitore anche probabilmente nel governo, che potrebbe permettere a questo punto, visto l'anno buttato via sull'Expo, potrebbe permettere di fare le opere, perlomeno quelle indispensabili, in tempo più veloce. Sentiamo da questa, mentre c'è chi poi, come l'architetto Vittorio Gregotti, dice: a questo punto è meglio già riflettere su un Expo completamente diverso da quello che ha vinto la gara con Smirne, perché tanti tempi non ci sono più, i soldi in questo periodo non è che arrivino come manna dal cielo, e quindi ragioniamo su un Expo più modesto ma più fattibile. Sentiamo intanto qual è la situazione di stallo e quali progetti di fatto, anche se non è stato ammesso, quest'anno perso ha fatto allontanare dall'Expo 2015 di Milano. Da sogno di rinascita a incubo di inefficienza. In poco più di 10 mesi, ciò che l'Expo 2015 rappresenta per Milano ha subito una metamorfosi radicale. L'evento che il capoluogo lombardo ha scelto di dedicare al tema dell'alimentazione era e rimane innanzitutto un grande volano di sviluppo. La manifestazione dovrebbe infatti portare alla creazione di 70.000 nuovi posti di lavoro e, nel periodo dell'esposizione, a crescere del 10% gli affari di chi opera nell'area milanese, con punte del 25% per alberghi e ristoranti. Ma l'Expo è anche l'occasione per la città di Milano di mettersi sotto i riflettori di fronte a 120 paesi espositori e ai quasi 30 milioni di visitatori attesi. Logico che la città vorrebbe presentarsi rimessa a lucido, ma al momento i cantieri che avrebbero dovuto essere già aperti da giugno sono fermi. Così, dal Libro dei Desideri, sono già state di fatto depennate opere come le vie d'acqua navigabili, che avrebbero dovuto congiungere l'area espositiva con la rete dei navigli, o i cosiddetti raggi verdi, ossia percorsi pedonali e ciclabili, costellati di alberi da inserire nel tessuto urbano. Del resto il tempo inizia a stringere e i soldi non abbondano, tanto più in un periodo di crisi come quello attuale. L'insieme delle opere previste vale poco più di 11 miliardi di euro. Ufficialmente all'appello mancano solo 2,5 miliardi, ma recentemente la Corte dei Conti ha espresso dubbi sulla reale copertura anche di quei fondi considerati blindati, come i 3 miliardi destinati alle opere essenziali, vale a dire all'area espositiva vera e propria. Al momento pienamente finanziati ci sono la Brebemi, la Pedemontana, la tangenziale est esterna, il prolungamento della linea 1 e una tratta della linea 5 della metropolitana. Fortemente a rischio, viceversa, la linea 4 che dovrebbe unire l'aeroporto di Linate con il centro città e altre opere viabilistiche come il triplicamento della tratta autostradale Rogallarate. Ed è a questi soldi che faceva riferimento il sottosegretario Roberto Castelli al microfono della nostra Anna Marino, di quei 3 miliardi e 200 milioni ritenuti essenziali perché sono quelli che servono per costruire i capannoni dell'Expo, parliamoci chiaro, i padiglioni, scusatemi, sì. Non le altre opere. Così, di questi 3 miliardi e 2 il governo li ha, lo ha detto Castelli, anzi neanche un po' di più perché ha levato il MOSE a 2 miliardi. Mancano all'appello quelli che devono arrivare dai privati, 900 milioni di euro, in questo periodo vorrei vederli, e gli 850 milioni che devono arrivare dagli enti locali, e anche qui, visto che poi i fondi europei scarseggeranno perché verranno utilizzati per la cassa integrazione e guadagni, vorrei vederli. Comunque, Salvatore Caruba, a questo punto ha senso ragionare su un Expo, come chiede Gregotti, minore? Un Expo, insomma, è inutile farsi tante illusioni. O c'è ancora la possibilità di cambiare, lo dico a chi scrive, non è tanto o solo Milano, tutte le opere infrastrutturali di allacciamento sono opere che servono anche a chi si sposta in tutta la direttrice Torino-Venezia, anzi Torino-Trieste. Salvatore. Ma innanzitutto cominciamo a ricordare che all'Expo manca intero il 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 5 anni, in 5 anni in altre parti del mondo si fanno altro che Expi. E queste non sono le Olimpiadi che abbisognano di straordinarie infrastrutture, di stadi, di piscine nuove. Io credo che il tempo ci sarebbe, teniamo conto peraltro che le infrastrutture di cui abbiamo parlato, la Brebemia eccetera, sono tutte cose che erano messe in calendario da decenni in certi casi. Quindi io credo che Milano possa ancora coltivare l'ambizione di fare un appuntamento di livello mondiale e che il governo possa assumere questa occasione come opportunità per una grande campagna di investimenti pubblici che è quello alla quale ricorrono tutti i governi. Lo stesso Obama ha investito, mi pare, 50 miliardi del pacchetto che tu poco fa ricordavi soltanto per i ponti e le scuole. Quindi non è del tutto incongruo che si investa su opere che rimangono. Per cui, senza indulgere al catastrofismo, io penso che i tempi ci sarebbero. Certo che nel giro di massimo un mese, due mesi, bisogna dare un segnale e anche ripeto all'opinione pubblica, perché si crei nell'opinione pubblica l'entusiasmo per questa operazione, che sennò, come diceva la scheda poco fa, rischia di risolversi in un boomerang, cioè di far pensare a Milano che sta perdendo un'altra grande occasione. Milano, quando si mette, in fondo le cose le sa fare. Nessuno era convinto che saremmo riusciti a restaurare in 30 mesi la Scala, invece ci ci siamo riusciti. L'operazione certamente era meno complessa, però nessuno ci credeva. Quando si vuole ci si riesce, e io credo che in 5 anni margini per fare le cose bene, anche rivedendo il progetto come forse impone la situazione, la contingenza, ma insomma lasciando però il significato importante di questa operazione ci sia. Allora, alcuni di voi ci chiedono, ma l'Expo del 2010, quello dell'anno prossimo a Shanghai, come è messo? Beh, io ve lo dico, poi un po' disarmante, nel senso che i cinesi hanno finito un anno prima, cioè è pronto già adesso, e a questi cinesi ci hanno abituati, e stanno per essere inaugurate in queste settimane tutte le opere, tutte. Il grattacielo più alto dell'Asia, 462 metri d'altezza, 4 nuove linee di metropolitane, la linea ferroviaria a gravitazione magnetica, l'area espositiva che sarà 5 volte più grande di quella prevista per l'Expo 2015 e 80 milioni di visitatori attesi a Shanghai. Vabbè, insomma, fare il confronto con Shanghai era veramente farsi del male, ma visto che l'avete chiesto, lo abbiamo fatto. Una previsione prima di chiudere, Salvatore, come... Visto che tu ci hai fatto ben capire che sì, le risorse sono sempre un problema, soprattutto in questi periodi, ma non sono il problema questa volta, perché volendo poi nelle pieghe di bilancio, immaginando che per esempio nel 2010 un po' di ripresa arriverà, che nel 2011 saremo fuori, insomma qualche soldo in più e qualche miliardo in più ci dovrebbe essere, questo dovrebbe essere il momento peggiore, il problema è politico. E allora secondo te come si risolverà? Ma io credo che si debba risolvere soprattutto all'interno della maggioranza. Bisogna trovare un accomodamento con il sindaco, bisogna che il sindaco abbia la garanzia di svolgere un ruolo importante in questa operazione, perché bisogna darle atto che poi è stato lei che l'ha voluta e l'ha portata a termine. Il sindaco deve capire anche che ci sono delle responsabilità anche finanziarie di ordine pubblico importanti, mi riferisco al governo, e che quindi non è assurda la pretesa del governo di voler avere voce in capitolo in questa operazione. E poi bisogna trovare un equilibrio tra tutte le forze politiche ma anche sociali, milanesi e lombarde perché tutti vengono coinvolti in questo progetto, che non può andare avanti se c'è soltanto il pubblico, ma che necessita di un coinvolgimento dei privati convinto e sostanzioso. Questo, diciamo, mi sembra un ottimo auspicio. Non mi sembra di aver visto però né una Moratti né un ministro Tremonti cedere sulle loro posizioni. Ma forse il presidente Berlusconi, che è eletto a Milano, dirà al sindaco della sua città e a uno dei più noti professionisti della sua città come il professor Tremonti li costringerà a trovare l'accordo. Io penso che alla fine a questo arriveranno. Grazie Salvatore Carubba. :17 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parleremo anche di IT Holding e quindi di ITR, perché è la ITR che oggi è società, tra l'altro controllata appunto da IT Holding, che ha chiesto il ricorso all'amministrazione straordinaria. IT Holding controlla, è una delle principali, era, visto che è sospesa, una delle principali società della moda quotata a Piazza Affari, controllava marchi come Ferré, Malo, Exté, ha in licenza marchi come Versace Jeans, Versace Sport, Just Cavalli, Costume Nazionale, Galliano. E insomma, ITR ha chiesto di andare in amministrazione straordinaria in assenza delle condizioni necessarie per mandare avanti le operazioni regolari. Tra l'altro, l'amministrazione controllata permetterà, lo dico a chi scrive, la protezione dai creditori, consentendo peraltro una ristrutturazione della società. Cioè, i creditori sono messi male in quel caso perché vengono di fatto bloccati. Molti di voi ci scrivono anche perché ci sono parecchi dipendenti che scrivono che da 4 mesi non prendono lo stipendio, e sono 30 dipendenti che ci stanno scrivendo in questo momento. Ancora alcuni dicono che chiedono che il governo si attivi come farà per Fiat e per il settore auto. Altri ascoltatori scrivono perché sono invece creditori di ITR e quindi anche di IT Holding. Vi arriviamo. Il resto della borsa invece è andato bene, più 1,2% S&P MIB, più 1,1% MIBTEL, Parigi più 0,4% come Francoforte, Londra mezzo punto percentuale di rialzo, l'America sta perdendo lo 0,20%. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, gli altri titoli. Poi nella seconda ora parleremo proprio della vicenda Unicredit. Nel frattempo è appena giunta un'agenzia. Il comitato nomine di Unicredit ha preso atto della volontà della larga maggioranza. Vabbè, la riassumo io. Confermati sia Rampl che Profumo ai vertici della banca per quello che riguarda Unicredit. Per quello che riguarda invece gli aiuti francesi al settore auto sono arrivati a 6,5 miliardi, cioè Sarkozy ha aggiunto altri 4 miliardi, di fatto 4,5 miliardi a Renault, Peugeot, Citroën, Renault Trucks, insomma tutti i gruppi di auto di dell'automotive francese. Lo ha annunciato poco fa lo stesso presidente Nicolas Sarkozy. Barclays diffonde i dati, veniamo alla borsa, Andrea, e perde, l'utile cala, ma cala molto meno delle attese, meno 1%, ci attendevano a meno 1 miliardo in meno gli analisti quanto utile. È questo che ha fatto salire oggi molte banche in Europa? Beh, certamente i conti Barclays hanno avuto, diciamo così, un impatto positivo nonostante svalutazioni per superiori agli 8 miliardi, ma certamente c'è stata una ricopertura su titoli bancari anche dopo, diciamo, le indiscrezioni che erano emerse venerdì da qualche dichiarazione secondo il quale ci si aspettava qualche salvataggio nel weekend di istituti di credito europei. Le banche invece, appunto, anche sulla scia di Barclays oggi sono state positive in particolare in Italia, e questo ha permesso all'SP MIB di essere il migliore tra gli indici delle principali borse continentali. Ne ha beneficiato Intesa San Paolo, ne ha beneficiato il Banco Popolare, alcuni titoli tra quelli più penalizzati ultimamente, lo hai ricordato tu, ne ha beneficiato Unicredit, che però aveva anche storie personali che spiegano il più 5% di oggi, ne ha beneficiato il Banco Popolare di Milano anche dopo le dichiarazioni del presidente Mazzotta, che ha confermato l'intenzione di voler distribuire il dividendo nel 2009. Ancora sui titoli, tu già i bancari li hai tutti ricordati, bene anche Saipem, più 5,1, Geox più 3,6, e poi c'è appunto l'intervista di Mazzotta, ma era quella a cui tu facevi riferimento adesso per quello che riguarda la BPM. Bene il comparto petrolifero, ma anche il settore auto. Cito velocemente, oltre a Tenaris più 2,3 c'è Fiat che guadagna l'1,80 e poi ST Microelectronics che guadagna l'1,7%, Buzzi Unicem più 1%, Luxottica più 0,90, Italcementi più 0,80%, Telecom più 0,7, Pirelli più 0,7. Settore auto con Fiat. Quanto riguarda il settore auto, alcune notizie di settore hanno permesso a questo comparto di essere il migliore in Europa, tant'è vero che l'indice di settore in Europa ha guadagnato il 3,7%. Per quanto riguarda Fiat, gli incentivi annunciati dal governo venerdì sono stati superiori a quello che si attendeva inizialmente, ma certamente le indicazioni che sono arrivate dalla Francia, dove i titoli Renault e Peugeot hanno messo a segno rialzi molto più significativi che quello di Fiat, ma anche le notizie arrivate dalla Svezia con i conti positivi di Volvo, che hanno permesso al titolo di guadagnare in doppia cifra, hanno sostenuto tutto il comparto in Europa oggi. Autogrill, peggior titolo, meno 2,2%, che è successo? Ma per quanto riguarda Autogrill, oggi ci sono stati due fattori che hanno inciso. Innanzitutto dollaro che è tornato a flettere nei confronti dell'euro ed è tornato ad avvicinarsi a quota 1,31 contro l'euro, mentre prima quotava in zona 1,29. Dall'altro canto invece per Autogrill ha pesato anche appunto, oltre all'indebolimento del dollaro, anche i giudizi arrivati da Exxon BNP Paribas, che hanno consigliato di vendere invece il titolo, quindi hanno un po' indebolito l'andamento di Autogrill, che ha perso oltre il 2%. Adesso, come d'attese, IT Holding sospesa, sospeso il titolo, ITR, che è la controllata, ha chiesto il ricorso all'amministrazione straordinaria. Questa scheda ci racconta che cosa è successo e perché alla fine non ce l'ha fatta a salvarsi, nonostante un paio di offerte degli ultimi mesi fossero sembrate in qualche modo risolutive, avessero riaperto le speranze. Lusso e moda, un binomio da sogno che è risultato fatale per IT Holding, complice anche la crisi mondiale. Posseduta al 60,6% da Tonino Perna, ma l'intero pacchetto di controllo è in mano a EFI Banca, il gruppo del lusso conta 1.800 dipendenti concentrati a Isernia, in Molise. Con ricavi che nel 2007 hanno superato i 630 milioni di euro, IT Holding coordina un gruppo di società che disegnano, producono e distribuiscono prêt-à-porter e accessori. Al 30 settembre 2008 l'indebitamento netto era di 295,4 milioni di euro, per lo più formato dal bond da 187 milioni, emesso per acquistare il marchio Gianfranco Ferré nel 2002. Il patrimonio invece ammontava a 105 milioni. Gli eventi per IT Holding erano precipitati a fine 2008. Dopo un precedente rinvio, il 20 dicembre era scaduta una rata di 9 milioni di un prestito di 108. Ma con la disponibilità delle banche ad un nuovo rinvio ad aprile, era arrivata la scure di Standard & Poor's. La società di rating aveva messo IT Holding in default selettivo, un giudizio normalmente assegnato a quei debitori che non hanno fatto fronte ai propri obblighi finanziari una o più volte. Nuovo anno, nuova scadenza. A febbraio scade infatti una rata di 20 milioni di euro di PA Investments, la finanziaria di Tonino Perna. Le ultime speranze a cui era appeso il destino di IT Holding sono tramontate nei mesi scorsi. Da una parte infatti era emerso l'interessamento di Billing Gok, l'imprenditore cinese con base a Hong Kong, a rilevare ITR. Poi però è uscito di scena. A inizio febbraio circolava invece il nome del fondo di private equity Kingsbridge come possibile cavaliere bianco. L'offerta avrebbe riguardato l'ingresso del fondo nella holding attraverso un aumento di capitale e il riacquisto del bond da 187 milioni di euro in scadenza nel 2012. Insomma, schiacciata dai debiti, da un'operazione che a questo punto, complimenti ai manager, perché comprare Ferré per 187 milioni, quando poi ti ritrovi con 105 milioni di capitali e 290 di debiti, complimenti. Insomma, i due terzi di questo debito sono imputabili all'operazione Ferré e ai prestiti richiesti. In una battuta, Andrea Fontana, perché siamo in chiusura, prospettive di remissione del titolo? Nulle per ora. L'azienda ha chiesto e Borsa Italiana ha comunicato che il titolo è stato sospeso in maniera a tempo indeterminato, quindi sicuramente insomma il processo di remissione del titolo sarà piuttosto lungo. Oggi c'è da aggiungere, è arrivato il taglio di giudizio da parte dell'agenzia di rating Moody's, che già peraltro aveva un giudizio sui rating di IT Holding come in probabilità di default, è stato ulteriormente peggiorato, però insomma il processo sarà lungo prima del ritorno. Sì, anche forse. Perché appunto se non riesce a pagare le scadenze quest'anno, figurati quella del 2012 di 187 milioni, vedremo se si troverà un compratore. Nostra solidarietà agli operai dell'ITR e quindi molisani, agli azionisti di IT Holding e anche ai creditori che scrivono, perché in questo momento con l'amministrazione controllata i creditori aspettano e dovranno aspettare. Grazie Andrea Fontana. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e continuano le vostre domande giustamente sulla vicenda IT Holding e ITR. Di fatto ITR ha chiesto l'amministrazione straordinaria, quindi vengono bloccati, poi c'è tutta la procedura, insomma i creditori, l'amministrazione straordinaria si chiede controllata, si chiede poi per evitare di venire sommersi dalla richiesta dei creditori, a maggior ragione i piccoli azionisti, il titolo è sospeso a tempo indeterminato, non ne sappiamo nulla, ma dispiace dirlo, ma è nel piccolo come la vicenda Parmalat. Se non riesce a ripagare alcuni prestiti chiesti, non riesce a ripagare le rate in scadenza, detta banalmente, è chiaro che a questo punto la borsa ha dovuto sospendere il titolo su richiesta della stessa IT Holding, e la richiesta di ITR è stata dell'amministrazione straordinaria. Staremo a vedere anche perché i marchi, come ricordavamo, i marchi che il gruppo controlla sono marchi molto prestigiosi, ripeto, oltre a Ferré, che è stata l'origine anche di questo grande indebitamento, costata 187 milioni l'operazione su Ferré quanto a richiesta di finanziamenti. Ci sono anche Malo e poi tutti i marchi in licenza, Versace Jeans, Versace Sport, Just Cavalli, Costume Nazionale, Galliano, vabbè. Ci mancava solo questo in questo periodo. Comunque adesso ci occupiamo di economia e di prospettive sull'economia, perché da un lato questa sera a Bruxelles inizierà il vertice dell'Eurogruppo e domani il vertice Ecofin, quindi ministri economico-finanziari prima dell'area euro, poi dell'intera Europa. Per l'Italia sarà presente il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che arriverà tra l'altro a Bruxelles con i numeri aggiornati sul programma di stabilità, cioè su come vanno i nostri conti pubblici rispetto agli obiettivi posti da Bruxelles. E allora partiamo dalle notizie in breve proprio su questo tema. Perché poco fa il Tesoro ha diffuso un aggiornamento al programma di stabilità italiano e viene confermato l'impegno di raggiungere il pareggio di bilancio, ossia il deficit zero, anche se si sposta per effetto della crisi di là, si sposta a anni futuri, nel senso che non sarà più 2011, ma dice il testo dell'aggiornamento, si sposta sull'asse del tempo. Nel 2008, secondo il Tesoro, il PIL si ridurrà dello 0,6%, i consumi delle famiglie mostrerebbero una riduzione di mezzo punto percentuale. Tra l'altro, questo è il dato sul 2008, su come dovrebbe aver chiuso l'Italia l'anno scorso. Sul 2009 il calo del PIL dovrebbe essere del 2%, quindi andremo al secondo anno di recessione. E solo verso la fine del 2009, come anche detto durante il fine settimana dal Fondo Monetario, ci dovrebbe essere una modesta ripresa. Ma il deficit pubblico italiano corretto per il ciclo, ossia non tenendo conto degli effetti del rallentamento economico, sarà sotto la soglia del 3% e continuerà a scendere anche nel 2009 e nel 2010. Questo si legge sempre in un passaggio del programma di stabilità che questa sera, domani, il ministro Tremonti illustrerà ai suoi colleghi europei. Per quello che riguarda il 2009, il Tesoro prevede una contrazione dell'occupazione, ossia un meno 1%. I disoccupati aumenterebbero così per il secondo anno consecutivo e toccherebbero l'8,2%. Per quello che invece riguarda le pensioni, sempre nella nota del Tesoro, nel programma di stabilità, l'Italia, viene fatto notare, pur essendo uno dei paesi col tasso di invecchiamento più elevato, presenta una dinamica della spesa per pensioni tra le più contenute dell'Unione Europea, grazie alle riforme degli ultimi 10-15 anni. E nel frattempo, mentre appunto questa sera e domani il ministro Tremonti sarà impegnato con i colleghi europei, si fa il bilancio sull'andamento dell'export. Perché? Perché il 2008 è stato un anno ancora sostanzialmente positivo. Le nostre esportazioni sono cresciute del 4,2%, del 2% a prezzi costanti, ma il biennio 2009-2010 potrebbe rivelarsi molto difficile per le nostre imprese, lo ha sottolineato oggi il rapporto sul commercio estero elaborato dall'ICE, che è l'Istituto per il Commercio con l'Estero, e Prometeia. Si evidenzia uno scenario economico in continuo deterioramento, tra l'altro dove gli scambi internazionali risultano particolarmente penalizzati. Un anno difficilissimo anche per chi era delega al commercio con l'estero, ossia il sottosegretario allo sviluppo economico Adolfo Urso, che ha detto però le imprese italiane resisteranno. Ascoltiamolo a microfono la nostra Paola Cavadi. È un anno difficile, direi che è un anno terribile per il commercio internazionale, perché è caduto il mercato mondiale, quindi sicuramente le prospettive sono molto difficili per tutti. C'è da dire che rispetto agli altri grandi paesi esportatori, l'Italia sta resistendo meglio, infatti il 2008 sarà chiuso comunque con un dato positivo del 3,5%, pari a quello della Germania e superiore a quello degli altri nostri partner europei. Però sappiamo che il 2009 sarà un anno difficilissimo, soprattutto la prima parte del 2009. Dobbiamo attrezzare le nostre imprese a resistere meglio delle altre, cogliendo anche le opportunità che ci sono in alcuni mercati. Sappiamo che per esempio i mercati emergenti resisteranno meglio dei mercati avanzati e infatti anche negli ultimi mesi le nostre esportazioni sono cresciute di più nei mercati emergenti, laddove le nostre imprese giustamente si stanno dirigendo. Crescono di più nei mercati esportatori di materie prime e in due aree particolarmente importanti per il nostro paese e per le nostre imprese, cioè l'area della sponda sud del Mediterraneo e del mondo arabo, che sono aree in cui la crisi mondiale si avvertirà di meno. E paesi in cui, malgrado la crisi, continueranno a crescere e soprattutto allargarsi quel ceto medio che tende ad acquisire prodotti italiani. E delle prospettive di come uscirà soprattutto l'Italia da questa crisi economica ha parlato oggi nel corso del rapporto ICE, della presentazione del rapporto ICE, Prometei anche il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi, ascoltiamo. Uscirà lentamente, a differenza dall'altra grande crisi globale che è quella del 74-75, il problema sarà il rimbalzo. Allora vivevamo in un'epoca di tassi di crescita che erano normalmente, prima metà anni 70, ancora intorno al 4-5%, e quindi ci fu un rimbalzo notevole nella seconda parte del 75 e ci riportò a recuperare il PIL perso molto rapidamente. E in questa fase invece noi viviamo come economia italiana con una crescita potenziale che è intorno all'1,2-1,3%. Quindi una perdita così rapida di PIL significa che ci vuole almeno un anno per recuperare la perdita di un trimestre soltanto. Se questo è vero, allora probabilmente avremo un'uscita lenta e recupereremo questi livelli, diciamo, molto avanti. La cosa cruciale però è che in questa crisi non si distrugga patrimonio produttivo, che molte imprese che stanno andando bene o stavano andando bene non si trovino schiacciate fra l'incudine di una domanda che è sparita e il martello di una crisi finanziaria che toglie loro credito. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi qualche spunto sulle infrastrutture, tema di apertura, ma soprattutto le banche, a partire da Unicredit, visto che oggi il comitato ha confermato comunque il ruolo di Rampl, Dieter Rampl e Alessandro Profumo. Parliamo ancora di infrastrutture perché abbiamo dedicato al tema dell'Expo tutta la prima parte del programma, dell'approfondimento, ma oggi, sempre a maggio, nella Mobility Conference che si è aperta a Milano, non solo è arrivato l'invito dal Presidente di Confindustria Marcegaglia a sbloccare investimenti che da subito sarebbero pronti, cioè 4 miliardi e mezzo di piccoli interventi nei comuni, e anche un invito a riflettere sul patto di stabilità, ossia utilizzare le opere e gli investimenti infrastrutturali per non conteggiarli, diciamo, dentro il deficit. È arrivata anche una dichiarazione del Presidente delle Ferrovie dello Stato, Innocenzo Cipolletta, su come sta andando anche l'alta velocità. Ascoltiamo al microfono della nostra Anna Marino. Raccogliendo i dati che già oggi cominciamo ad avere delle frequenze sui nostri treni, noi formuleremo delle offerte di prezzo che sono modulate sulla giornata, sul tipo di giornata e sull'orario, in maniera tale da poter fornire servizi a prezzi molto più bassi per coloro che accettano di partire in certe ore della giornata, in certe giornate. Questo a noi consente di riempire i treni, ma per i passeggeri, soprattutto per la fascia di passeggeri non business, che quindi possono adattare la giornata e ora di partenza anche alle esigenze, potranno avere dei biglietti molto meno cari. Ma in linea di principio noi pensiamo che noi andremo verso il 60% del totale della massa dei passeggeri, però io aspetto di fare questi conti anche quando la recessione sarà terminata, perché credo che a questo momento ci saranno molti più passeggeri e sarà importante vederla a quel momento là. E adesso l'ultimo tema di questa puntata, la vicenda Unicredito e insomma come alcuni titolano avanzano i libici in Unicredito. Che cosa era successo? Insomma, c'è l'aumento di capitale in corso per quello che riguarda il gruppo Unicredito, aumento che si farà attraverso un prestito obbligazionario convertibile da 3 miliardi di euro. A un certo momento chiamati a partecipare i vari soci di Unicredito, quindi Fondazione Cari Verona che ha il 6%, la Bank of Libya che ha il 5%, la Cassa di Risparmio di Torino che ha il 3,8% e poi Allianz al 2,5%, Carimonte il 3,3%, Barclays al 2%, si sfila, cioè si tira indietro proprio la Fondazione Cari Verona. Quella che ha Biasi nel suo presidente non aderisce ai 500 milioni richiesti per partecipare a questo aumento di capitale e poi la notizia del fine settimana che questi soldi verranno messi da altri, la Cassa di Risparmio di Torino da un lato ma anche e soprattutto i libici. 80 milioni metterà infatti la CRT dopo il no della Cari Verona, e la Libia, Carimonte invece partecipano. Oggi il comitato, ripeto, nomine ha confermato ai vertici Dieter Rampl e Alessandro Profumo. Con noi in studio c'è Alessandro Praterotti, capo redattore delle pagine di finanza del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Come mai, allora, che cosa c'è in ballo? Lo sappiamo, Unicredito doveva ricapitalizzare, era sceso così tanto il titolo, valeva 6 euro diciamo un anno fa, un po' più di un anno fa, adesso è 1,5, 1,3, per cui era sceso sotto dei livelli diciamo di soglia in cui sei obbligato a aumentare il tuo capitale, i famosi tier. Però perché Cari Verona, ossia Biasi, non ha voluto partecipare? Questo vorrebbero saperlo tutti nel dettaglio. Quello che però possiamo dire dalle ricostruzioni fatte finora, ci sono due ordini di motivi. Uno che riguarda un tema di governance, ovvero perché mai il presidente deve essere tedesco, quando in termini tecnici possiamo dire che c'è stato lo squeeze out, cioè c'è stata l'uscita dei soci tedeschi dopo la fusione di HVB e l'incorporazione di Bank of Austria. Per cui pone una questione di principio: se un presidente non è rappresentato da degli azionisti, perché deve fare il presidente? Questo è un tema, quindi diciamo così, più strettamente di governance. Poi si dice, e qui parlo del si dice perché non abbiamo evidenze concrete da poter portare, che ci sia stato anche alcuni ragionamenti di carattere più politico, ma quando dico politico lo dico anche fra virgolette, nel senso: qual è il ruolo di una fondazione sul territorio? È quello di amministrare di incidere sulla gestione della banca di cui è azionista, o quello di investire sul territorio per opere, per iniziative di campo economico, sociale e culturale? Ecco, a questo punto probabilmente fra la scelta delle risorse disponibili, di come impiegarle, sono stati fatti anche dei ragionamenti un po' più stretti sul fatto di dire: meglio investire su Verona che investire su Unicredito. E tra l'altro cito anche la dichiarazione del sindaco di Verona, Flavio Tosi, che aveva, se non ricordo male, sabato, apprezzato il fatto che la fondazione non portasse i soldi diciamo dentro Unicredito, perché l'obiettivo dovrebbe essere anche ridistribuirli o comunque investirli, non ridistribuirli sul territorio. I nostri ascoltatori sanno bene, questo è un momento molto difficile, soprattutto anche per le fondazioni e per tutti quelli che hanno investito nelle banche. I prezzi dei valori di borsa, i prezzi dei titoli delle banche sono crollati, come giustamente dicevi tu, quindi il valore di quegli asset si è più che dimezzato, in alcuni casi quasi vale un terzo oggi di quello che valeva appena un anno fa. Ecco, e soprattutto gli utili probabilmente se ne vedranno molto pochi, e quando si vedono pochi utili c'è il rebus dei dividendi, probabilmente non ci saranno neanche molti dividendi. Quindi che cosa andrà nelle casse delle fondazioni? Molto poco. Bisognerà fare i conti con le risorse disponibili, con la domanda che viene dal territorio di presenza della fondazione, ma anche con quella che è la richiesta delle banche di ricapitalizzarsi. E questo non credo che riguardi solo Unicredit. E qui arriviamo al resto delle banche. Che cosa dobbiamo aspettarci? Cioè, da un lato il fatto che i libici partecipino e la Cari Verona no, rafforza diciamo la componente libica, quindi vorrei capire anche se avremo un Unicredit più libico oriented, non so come dirla, o se no in alternativa, no, quali altre banche potrebbero avere un po' di difficoltà andiamo in questo per periodo? Ordine, noi siamo in presenza di un grande investitore che è la Libia, un investitore che ha manifestato la propria volontà di crescere in Italia anche non solo attraverso Unicredito, ma anche attraverso Eni e possibilmente anche Telecom Italia, se ne è parlato già da tempo. Quindi abbiamo un investitore dotato di tutte le risorse che oggi mancano ai nostri, quindi è ovvio che in questo momento la Libia dà una disponibilità ad intervenire, ma la domanda di tutti è: a quale prezzo? E questo ancora non lo sappiamo. E quando dico quale prezzo non significa che è il potere di condizionamento, ma sicuramente quali saranno gli equilibri che andrà a scardinare l'aumento di peso della Libia. Cioè quali saranno gli effetti sull'azionariato italiano? Questo ancora non lo sappiamo. Altra vicenda, Mediobanca Unicredito. Non è un mistero che proprio verso fine Natale e fine anno da Cari Verona, dai veronesi, fosse arrivata questa ipotesi allo studio. È stato uno dei motivi per cui poi loro si sono raffreddati, ma soprattutto è ancora un'ipotesi allo studio? Ma ufficialmente non lo è, perché dobbiamo fare sempre riferimento a quelle che sono le comunicazioni ufficiali. Tutti hanno smentito di avere allo studio questa operazione, ma il fatto che sia stata smentita non significa che sia nella testa di qualcuno, e sicuramente poteva esserlo a Verona, ma poteva esserlo anche a Milano. Il punto qual è? Sono due tasselli importantissimi del sistema bancario e finanziario italiano. Un sistema bancario e finanziario che è debole, tutto sommato ancora frammentato, malgrado le concentrazioni che abbiamo visto negli altri anni, negli anni passati, e l'unione fra queste due banche fa gola a molti sotto il profilo, diciamo così, più politico, di avere un raggruppamento forte nel retail, cioè nell'attività bancaria tradizionale. Vedi Unicredit, è uno attivo come banca di investimento di ampio respiro italiana, Mediobanca. In altri paesi del mondo è quello che è avvenuto, perché banche di investimento, parliamo dell'America ad esempio, del paese che ha avuto più avanzata questo processo, l'unione fra investment banks e banche commerciali, per quale motivo? Per aumentare la raccolta delle banche di investimenti, che in questo momento sul mercato corporate, quello delle imprese, raccolgono molto poco. C'è bisogno di funding, come viene detto in termini tecnici, cioè di flussi di cassa che arrivino all'interno della banca da poter essere utilizzati. In una battuta, perché abbiamo concluso il nostro tempo, ma altre banche su cui potremmo avere, così, non dico sorprese, ma una dialettica intensa? Ma dialettica intensa, sicuramente non possiamo dimenticare che ci sono altre banche che aspettano di prendere decisioni in campo patrimoniale. Sappiamo bene quali sono il Monte dei Paschi, sono il Banco Popolare, quindi l'ex Lodi, diciamo così, insieme a Verona, sì. E poi c'è anche Banca Intesa, che per lo stesso, è stato lo stesso Corrado Passera, l'amministratore delegato, a dire: aspettiamo di vedere i famosi Tremonti Bond, vediamo quale sarà il loro costo per la banca, quindi deciderà anche Intesa probabilmente un giorno se ricorrere ai Tremonti Bond o se ricorrere ad altre forme di rafforzamento patrimoniale. Sicuramente la compagine nazionale di Intesa è molto più vasta di quella di Unicredito in termini di fondazioni, quindi avrebbe sicuramente meno problemi se mai dovesse decidere di seguire questo percorso. Quello che riguarda il Monte dei Paschi e il Banco Popolare invece ha sicuramente una grande attesa per queste obbligazioni del governo che dovranno servire a rafforzare il patrimonio. Sì, non abbiamo tempo per parlare adesso, ma insomma i Tremonti Bond, come vengono chiamati, sono quello strumento già usato in altri paesi, penso alla Gran Bretagna, alla Germania, ma non solo, in cui lo Stato offre delle obbligazioni a un certo tasso e lì bisogna capire quanto costeranno. Qual è il costo vero per le banche? Sì, al cioè, chi si siede dentro il Consiglio, diciamolo a tutte, se poi entra il governo, la politica dentro oppure no, come garanzia nel caso abbiano problemi di capitalizzazione vista la crisi e visti il crollo del valore dei titoli in borsa. Grazie ad Alessandro Patriotti, capo redattore della pagina di finanza del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, vi auguro buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.